Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. And the Oscar goes to the great beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Okay, thank you to the Academy, thank you to Tony and Nicola and all the actors, producers and the crew. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. And thank you to Roma and to Napoli and my personal great beauty, per me, Daniela, Anna e Carlo. È una cagata pazzesca! Ha dato il suo punto di vista sulla grande bellezza che ha vinto in modo inequivocabile l'Oscar, l'avete sentito, l'annuncio della premiazione, la contentezza di Sorrentino ieri durante appunto l'assegnazione dei premi Oscar alla grande bellezza. Però c'è qualcuno, molti italiani in realtà, spettatori, non tanto i critici, non l'hanno apprezzato, è stato soprattutto apprezzato all'estero. Infatti avete visto che l'America ieri ha riconosciuto questo grandissimo, il massimo insomma dei premi mondiali sul cinema, mentre gli italiani, qualcuno è rimasto perplesso, i spettatori e anche qualche critico, e uno ha detto proprio quasi così, ha detto una boiata pazzesca, sentiremo più tardi. Del resto i gusti non sono una religione, no, almeno diciamo nel fatto di cinema. Qual è la vostra opinione? Siete contenti innanzitutto che abbia vinto La grande bellezza come miglior film straniero agli Oscar? E naturalmente poi i temi sono moltissimi, centralissima l'Ucraina, questa crisi, questa tensione che cresce man mano e fa temere il peggio, ma c'è tutta la comunità internazionale, la diplomazia internazionale che sta lavorando per scongiurare insomma che ci possa essere poi un grave conflitto. E poi c'è anche la politica italiana che ha riservato negli ultimi istanti, negli ultimi minuti, una sorpresa, diciamo così, tra virgolette, probabilmente un atto dovuto. Ma direi di partire, prima poi di approfondire i vari temi, come sempre con il riassunto della giornata. Ucraina, ultimatum della Russia a Kiev, poi smentito. Il presidente americano Obama dice la Russia è dal lato sbagliato della storia. Politica italiana, accordo a rischio sulla legge elettorale da domani in aula. Intanto si dimette il sottosegretario Gentile nel mirino del Movimento 5 Stelle e non solo. Formigoni, l'ex presidente della regione Lombardia, sarà processato per lo scandalo della clinica Maugeri. Nigeria, nuova strage nel paese africano. Testimoni parlano di strade piene di cadaveri. Pompei, un nuovo crollo dopo le abbondanti piogge, ormai una corsa contro il tempo. E partiamo quindi dalla crisi ucraina, che sembra al momento ben lontana da trovare una soluzione. Si teme che possa degenerare, appunto, vi dicevo, in un grave conflitto. Mosca giudica inaccettabili le minacce alla Russia dal sottosegretario di Stato americano. John Kerry aveva condannato domenica quello che ha definito un incredibile atto di aggressione russo in Ucraina dopo che le forze russe hanno preso il controllo della Crimea, e il Parlamento russo ha dato al presidente Vladimir Putin il consenso per inviare l'esercito in Ucraina. A livello diplomatico, i ministri degli esteri dell'Unione Europea condannano con fermezza la chiara violazione della sovranità dell'Ucraina e chiedono il ritiro immediato delle truppe russe, chiedono una soluzione pacifica della crisi. E quanto si legge questo nella conclusione della riunione a Bruxelles del Consiglio degli Esteri straordinario che c'è stato. L'Unione Europea comunque deciderà sulle conseguenze per il rapporto bilaterale. Anche gli Stati Uniti fanno sapere dal Dipartimento di Stato che stanno preparando sanzioni contro la Russia. Obama ha detto proprio che la Russia si trova dal lato sbagliato della storia. Tante sono poi le ripercussioni di questa crisi. La Borsa di Milano, per esempio, cade per questa tensione tra Russia e Ucraina e chiude la seduta in profondo rosso. Il FTSE MIB ha ceduto il 3,34%. Però l'argomento poi lo riprendiamo più tardi con un inviato. Adesso parliamo invece della politica italiana con l'ultima novità, Bettafiorito. Quindi a forza di premere, diciamo, Antonio Gentile, neo sottosegretario, si è dimesso. Notizia di poco fa. Si è dimesso, lui praticamente ha fatto una lunga lettera, ha scritto una lunga lettera, ha scritto a Matteo Renzi, ha scritto a Angelino Alfano e praticamente ha detto che le sue dimissioni sono un gesto di generosità per il paese, ma che lui è stato praticamente gettato nella macchina del fango e che continuerà comunque a fare politica nelle istituzioni e anche come coordinatore della sua regione per il nuovo centrodestra, aspettando che la magistratura smentisca definitivamente le illazioni di cui è vittima. Le ricordiamo, scusa Betta, le illazioni? Lui praticamente c'è anche su molti siti una telefonata integrale di questa famosa telefonata in cui praticamente il tipografo della rotativa dell'Ora della Calabria cerca di fare poi pressioni affinché il direttore responsabile e l'editore non stampino il giornale che contiene la notizia di un'inchiesta, di un'indagine che riguarda il figlio a carico di del figlio di Gentile. Lui, Antonio Gentile stesso, cita addirittura Cesare Beccaria dicendo dei che diritti l'Italia delle pene. Sì, è tornato nel medievalismo più opaco, fatto di congetture astruse, di mera cattiveria, però lui si dimette e subito dopo, diciamo comunque in contemporanea, viene fuori la notizia, l'ANSA batte la notizia che Gentile non è indagato e lo dice il procuratore di Cosenza. Questo subito dopo, devo dire, alle 19.56 l'ANSA batte il fatto che Gentile si sia dimesso, alle 20.15 il procuratore di Cosenza dice che Gentile non è indagato e comunque lui chiede che si faccia luce su tutto e Angelino Alfano, perché poi Gentile è l'uomo del nuovo centrodestra in Calabria, porta molti voti al neopartito di Angelino Alfano, dice per noi viene prima l'Italia. Comunque si chiude una diatriba perché la sinistra del PD chiedeva le dimissioni dell'opposizione interna del PD, chiedeva le dimissioni di Gentile. Il Movimento 5 Stelle, la sfiducia, no? Stava preparando. Aveva annunciato una mozione di sfiducia che Sel avrebbe praticamente votato, insomma. Poi con la crisi ucraina, con la Jobs Act e con l'Italicum che domani sbarca alla Camera, ricordiamo 600 emendamenti, c'è già un emendamento che fa discutere che è quello di Da Torre sull'Italicum applicato alla sola Camera dei Deputati, insomma Renzi ce n'aveva veramente troppe e quindi Antonio Gentile, diciamo, gentilmente è stato poi sacrificato, gentilmente si è dimesso. Grazie Betta Fiorito. Grazie, subito sul pezzo, la cosa appunto che è successa poco fa. E adesso parliamo dello scandalo della clinica Maugeri a Milano. È stato rinviato a giudizio Roberto Formigoni insieme ad altre 9 persone per associazione a delinquere e corruzione. A processo per quelle vacanze ai Caraibi, per i viaggi aerei e per tutte quelle utilità economiche, per dirla con la procura, considerate il prezzo del trattamento di favore per la clinica. Roberto Formigoni sarà giudicato dalla 10ª sezione del Tribunale di Milano per la vicenda Maugeri, insieme al faccendiere Pierangelo Daccò e insieme, tra gli altri, all'ex assessore Simone. Per anni, secondo l'accusa, l'ex governatore della Lombardia e attuale senatore del nuovo centrodestra si sarebbe dato da fare perché la giunta approvasse provvedimenti ad hoc per la Maugeri che in totale dalla regione aveva ricevuto finanziamenti per 200 milioni. È questa quella protezione globale che secondo i PM Formigoni avrebbe garantito alla clinica pavese in cambio appunto di benefit per 8 milioni di euro per sé o per amici, ma in cambio pure di denaro contante. Ora di tutto questo e della gestione della sanità al Pirellone l'ex celeste governatore dovrà dare spiegazioni in un processo. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E Beppe Grillo è stato condannato a Torino a 4 mesi di reclusione e una multa di 100 euro per la violazione nel 2010 dei sigilli al presidio Notav nella baita di Chiomonte, in un'area destinata a diventare zona di cantiere per la Torino-Lione, posta sotto sequestro per abuso edilizio. Stessa pena anche per il leader Notav Alberto Perino. E poi notizia di poco fa anche della scomunica da parte di Beppe Grillo del sindaco grillino di Parma, Pizzarotti, per aver voluto annunciare una riunione dei sindaci per metà marzo. Era una cosa che ho visto poco fa, molto così di sfuggita, e Grillo ha detto questa cosa non era stata concordata con noi, con i vertici, e quindi ha dato una specie di scomunica a Pizzarotti che dice se fare rete significa fare qualcosa contro il movimento, allora fate voi. Questa è stata la risposta. Adesso passiamo alla crisi economica e l'Europa e sentiamo che cosa ha detto oggi il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. 4 years after the first member states requested financial assistance. 4 anni dopo la prima richiesta di aiuto finanziario di un paese, possiamo dire che il peggio è passato. La volontà politica di tutti gli attori coinvolti è stata forte abbastanza da difendere l'integrità dell'Eurozona. E molti sottovalutano questa volontà. Ma non solo. Contrariamente al pallido quadro che molti dipingono, la zona euro, specialmente nei suoi fondamentali economici, è in una forma migliore rispetto all'inizio della legislatura di questo Parlamento. L'eurozona sta andando nella giusta direzione. Il bicchiere è mezzo pieno. E parliamo adesso dell'Oscar vinto nella notte della grande bellezza. La grande bellezza, la grande gioia. And the Oscar goes to the great beauty, Italy, Paolo Sorrentino. I ringraziamenti di Paolo Sorrentino sono destinati a passare alla storia. Avevamo gioito per il Italy Crazy Country But Beautiful dei Globe, ma questa volta è per il premio più pesante. Sorrentino ha dato il meglio. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. Ecco le quattro grandi ispirazioni di Paolo Sorrentino, che così ha spiegato a caldo nella press room. Sono quattro campioni nella loro arte che mi hanno molto condizionato, mi hanno insegnato tutti che cosa vuol dire fare un grande spettacolo. L'Italia torna a vincere a Los Angeles e all'estero dopo tanti anni e deve essere una nuova strada per il cinema italiano. I don't know if the Italian industry is doing... Non so se l'industria italiana del cinema stia già tornando ad aprirsi al mondo, ha detto Sorrentino. Penso che debba fare di più. It's a long time that we are going to do just... Da troppo tempo facciamo film solo per un mercato locale. Spero che questo premio sia di stimolo per il cinema italiano a fare storie che possano andare ovunque. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E scrive Stefano da Bergamo. Vi ho detto che per esprimere le vostre opinioni potete scrivere come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi SMS al 349-238-6666. Scrive Stefano, non male il film La Grande Bellezza, avrebbe dovuto però chiamarsi La Grande Schifezza per la Roma che descrive. E sulla difficile situazione in cui versa Roma, sentiamo che cosa ha detto l'imprenditore ex candidato a sindaco della capitale nelle ultime elezioni a Roma, Alfio Marchini, ospite questa mattina a Mix 24. Ma il presidente Renzi è stato durissimo con Marino. Ha rifatto un decreto con vincoli strettissimi che impongono tagli, vendite, liberalizzazione. È un commissariamento di fatto? Sì. Solo Marino non ha ancora capito, ma abbiamo imparato in questi mesi a conoscere la sua difficoltà a relazionarsi con la realtà, ma vedrà che lo capirà. Ma questo qui è un piano di ripartenza, di risanamento o un ennesimo pannicello caldo? Sinceramente ritengo che la direzione sia la ridirezione giusta, ma è bene dire chiaramente che fin da ora sappiamo che al netto di tutti gli aiuti del Salva Roma nel 2014 il buco sarà di un ulteriore 600 milioni di euro. Accidenti. Senta, ma a novembre lei, appunto, a proposito di questo, aveva detto: il fallimento economico di Roma è un'ipotesi che non mi spaventa. Era meglio quella allora? Guarda, io ho detto una cosa diversa. Io ho detto che qualora non si fosse approvato il bilancio previsionale, tra l'altro a novembre, sarebbe arrivato il commissario. Oggi mi sembra che sia chiaro a tutti che un commissario è il male minore rispetto ad andare avanti con questa giunta. E anche Pompei non se la passa per niente bene. Oggi c'è stato un nuovo crollo dopo quello di ieri, ma di questo ne parleremo tra poco con il presidente della Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO. Parliamo invece dell'Expo 2015 adesso, che potrebbe essere la prima opera pubblica a costare meno del previsto rispetto al piano di 4 anni fa. Infatti sono stati spesi 300 milioni di euro in meno. Questa mattina a Milano hanno fatto il punto sullo stato del progetto 4 ministri. Se per salvare il comune di Roma lo Stato ha trovato più di 500 milioni di euro, per Expo se ne attendono almeno 2 miliardi. Ci scherza su, ma nemmeno più di tanto, il presidente della Lombardia Roberto Maroni, che presenta al governo Renzi una lista di obiettivi a cui rispondere rapidamente. Confido sulla generosità del governo, visto la generosità che ha avuto nei confronti del comune di Roma. Un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale italiano, afferma il ministro Dario Franceschini, proprio nelle ore in cui Sorrentino vince l'Oscar e a Pompei si registrano nuovi crolli. A fare il punto a Milano mancava il premier, ma Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, assicura. Arriverà sicuramente a Milano per Expo. Vi posso assicurare che il dossier Expo è un dossier fondamentale a Palazzo Chigi. Per risolvere i ritardi, il Ministero delle Infrastrutture sarà trasferito a Milano per un mese, afferma il ministro Maurizio Lupi. Un progetto che ha portato sul territorio 800 milioni di euro, un primo passo per la ripartizione ripartenza economica italiana, sottolinea il ministro allo sviluppo economico Federica Guidi. Expo 2015 potrebbe essere la prima opera pubblica che costerà meno del previsto. Sono stati già restituiti 300 milioni di euro. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. In Nigeria sono almeno 80, secondo un testimone sentito dal quotidiano locale nigeriano del Daily Post, le persone uccise nell'assalto compiuto oggi da un numero imprecisato di miliziani pesantemente armati che hanno dato l'assalto a Mafa, località nel nord-est della Nigeria. E ha detto sempre questo testimone, le strade sono piene di cadaveri. Si è aperto oggi, invece spostiamoci in Africa, oggi a Pretoria, in Sudafrica, il processo a carico dell'ex campione Oscar Pistorius, accusato dell'omicidio, vi ricordate, premeditato dell'ex fidanzata Riva Steenkamp nella notte del 14 febbraio 2013. L'ex atleta si è dichiarato non colpevole. Intanto una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sul nord-est degli Stati Uniti, a Washington, dove nevica e sono previsti oltre 25 centimetri di neve, gli uffici federali e il congresso sono chiusi. Torniamo con la cronaca in Italia. Sabrina Misseri, condannata all'ergastolo insieme alla madre Cosima Serrano per l'omicidio di Sara Scazzi, la cugina quindicenne strangolata da vetrana il 26 agosto del 2010, è ancora pericolosa, potrebbe fuggire, inquinare le prove, pertanto deve rimanere in carcere. Lo hanno stabilito i giudici dell'appello cautelare di Taranto, che confermano la decisione della Corte d'Assise di non concedere gli arresti domiciliari alla 24enne. E poi una notizia che riguarda Fiorello, che ha investito oggi a Roma un signore di 73 anni che stava attraversando la strada sulle strisce. Entrambi sono finiti in ospedale. Il 73enne ha una frattura bilaterale a tibia e perone e la frattura del bacino. Per Fiorello un trauma cranico curato con 12 punti di sutura. E poi il calcio per chiudere, stangata del giudice sportivo per Daniele De Rossi e Juan Jesus per i fatti di Roma-Inter. 3 turni di squalifica ciascuno per il pugno rifilato dal romanista all'attaccante interista Icardi e dal difensore nero azzurro al giallo rosso Romagnoli. Ricordiamo che De Rossi, sempre per il gesto violento nei confronti di Cardi, non è stato neppure convocato per l'amichevole tra Spagna e Italia di mercoledì a Madrid. Bene, direi che il riassunto della giornata a questo punto c'è, cominceremo poi tra poco a approfondire alcuni temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra pochissimo cercheremo di capire meglio che cosa sta succedendo proprio nelle ultime ore in Ucraina, però intanto vi ricordo i fatti principali. Partendo proprio dall'est della Ucraina, che ormai è in mano ai russi, Kiev dice non cederemo e non è... Prima si è parlato di ultimatum di Mosca in Ucraina, poi invece si dice che è stato smentito, poi mai smentito, adesso cercheremo di capire meglio. La cancelliera Merkel dice Putin è fuori dalla realtà e Obama dice la Russia è dal lato sbagliato della storia. Per quanto riguarda la politica italiana, c'è l'accordo a rischio sulla legge elettorale che da domani incomincia il suo iter in aula. Intanto si dimette il sottosegretario Gentile nel mirino del Movimento 5 Stelle e della sinistra del PD. Formigoni, l'ex presidente della Regione Lombardia, sarà processato per lo scandalo della clinica Maugeri. Poi Pompei, un nuovo crollo dopo le abbondanti piogge, ormai è una corsa contro il tempo. Bene, quindi dicevamo, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in queste ultime ore tra smentite, annunci, minacce, ultimatum in Ucraina, e c'è là Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera, che saluto e ringrazio. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Francesco, allora, adesso vedevo le ultime dichiarazioni da parte del Consiglio dei Ministri Esteri, che si è riunito eccezionalmente a Bruxelles, per voce della Ministra degli Esteri Mogherini, che ha detto la parola d'ordine comune emersa nel Consiglio Esteri è stata de-escalation, cioè si è deciso di usare in queste ore cruciali tutti gli strumenti diplomatici e politici per cercare di arrivare a una soluzione pacifica che non degeneri in un conflitto. La situazione è tesissima in questo momento, davvero il rischio potrebbe essere questo, Francesco? Ma sì, la chiave è probabilmente nelle prossime ore, più che l'ultimatum dato dai russi, mi sembra almeno, o se sempre che un ultimatum sia, se sia vero, più che altro il viaggio di John Kerry, il segretario di Stato americano, che farà domani a Kiev. Da lì si capirà probabilmente già qualcosa della linea che soprattutto il governo ucraino intende mantenere, perché fino a questo momento gli ucraini di fatto non hanno dato alcun tipo di indicazione su come vogliano reagire, si sono in qualche modo attestati sulle posizioni e hanno lasciato fare. Domani dovrebbe arrivare dovrebbe una risposta più decisa, e sulla base di quello si potrebbe capire meglio che cosa faranno i russi e che cosa farà la comunità internazionale. La missione è delicatissima, come si può capire, e anche in Crimea si avverte l'importanza di quello che può succedere a Kiev, o comunque può succedere negli incontri europei di giovedì, perché le stesse militari che sono a distanze si fronteggiano nelle basi, ormai ridotte a poche centinaia di uomini, e aspettano di capire che cosa devono fare. Dicevi, missione delicatissima della comunità internazionale, poi si ritrovano di nuovo contrapposti in questa crisi, due ex blocchi tradizionali, no? Gli Stati Uniti da una parte, la Russia dall'altra. Perché la Russia ci tiene tanto alla Crimea, potrebbe chiedersi qualcuno, no? Che sembra una piccola penisola vista così sotto l'Ucraina, no, Francesco? Sì, è una tradizione, è una specie di tradizione russa, quella di considerare la Crimea un cortile di casa su cui non si vogliono intromissioni. Da sempre lo è stato, era un tempo, era il posto delle vacanze degli oligarchi russi, della nomenclatura russa soprattutto. Oggi gli oligarchi vanno in altre località, però rimane l'importanza strategica, che sarà detta molte volte, della presenza della flotta russa sul Mar Nero, e rimane la faccia sul Mediterraneo attraverso il Mar Nero, che consente comunque a Mosca, per esempio, di avere ancora un ruolo fondamentale in Medio Oriente. Non dimentichiamo che in queste ore in cui si parla molto di Ucraina c'è sempre un conflitto siriano aperto, in cui Mosca è un attore importantissimo, e proprio il conflitto siriano più di altri ha determinato il ritorno della Russia su quello scenario. Ecco, la presenza di metà della flotta russa sul Mar Nero, questa importanza del controllo dei porti siriani, dei porti dello sbocco sul Mediterraneo, sicuramente sono gli elementi che hanno fatto decidere in maniera netta. Poi c'è il gioco del ricatto, il ricatto finanziario sull'Ucraina, perché il tenere in mano un pezzo di paese è quasi, per il Cremlino, considerata quasi una garanzia sui propri crediti, ora che a Kiev è cambiata la maggioranza, è cambiata la leadership e molto probabilmente quei soldi che il Cremlino esige non verranno versati dall'Ucraina, probabilmente verranno versati in aiuti da qualche altro paese. Vedo adesso, Francesco Battistini, proprio una dichiarazione di pochi istanti fa del primo ministro della Crimea, Askeniev. Dice: la mia proposta è che il voto referendario sia sulla piena autonomia dall'Ucraina. Lo ha detto il premier della Crimea in un discorso in Viale Carlo Marx, a due passi dal Parlamento, in un discorso trasmesso dalle TV locali. La proposta deve essere ratificata giovedì, quindi la Crimea adesso sta pensando a un referendum per staccarsi, per rendersi autonoma dalla... È stato proclamato un referendum per il 30 di marzo, infatti la presenza militare russa in Crimea garantirà anche di fatto questa svolta politica. Sarà fatto un referendum, deve essere fatto inizialmente il 25 maggio in coincidenza con le elezioni politiche ucraine, ma in questo momento è stato spostato il 30 marzo. Sarà un'autonomia rafforzata quella che il governo autonomo della Crimea chiederà. La Crimea è già una repubblica con grande autonomia all'interno dell'Ucraina, in questo modo questa sarà una secessione di fatto, perché sarà soprattutto garantita dalla presenza dei soldati russi. Referendum più soldati portano alla nascita di una repubblica autonoma, e una repubblica addirittura indipendente, e sono molti per esempio che paragonano in questo momento qui la situazione della Crimea a una situazione lontana nella storia e dalla memoria, come fu quella di Cipro, quando la Turchia intervenne a tutela della minoranza turca a Cipro, e di fatto creò una repubblica indipendente riconosciuta solo dalla Turchia. Ecco, uno scenario che adesso qui soprattutto i nazionalisti della Crimea agitano e vedono come possibile. Questo potrebbe essere, se si lasciasse fare, una possibile, tra virgolette, soluzione semipacifica? Nel senso che secondo te la comunità internazionale, se non c'è spargimento di sangue, lascerà, potrebbe essere questa la... decorso questo potrebbe vicende. Essere nel gioco nella, che non riguarda solo l'Ucraina, appunto riguarda molti altri tavoli, come abbiamo ricordato il Medio Oriente, altri in cui Putin ha un ruolo, potrebbe essere una pedina di scambio. Certo, molto dipenderà anche da che cosa l'Ucraina accetterà, perché se finché la crisi viene limitata alla Crimea, alla penina di Crimea, forse questa crisi gli stessi ucraini se l'aspettavano. Se questa crisi si estenderà come sta succedendo a est, cioè in tutta la parte russofona dell'Ucraina, dove anche lì si sta chiedendo ormai apertamente la secessione, allora questo minerà totalmente, sfalderà completamente il paese, e questo a Kiev difficilmente potrà essere accettato. L'ultima cosa, Francesco Battistini, fra l'altro oggi sono state dette cose molto pesanti, prese di posizione durissime sia dalla Germania che dagli Stati Uniti. Anche la Merkel ha detto Putin è completamente fuori dalla realtà, ha perso ogni contatto con la realtà, ha detto, e Obama ha dichiarato la Russia è dal lato sbagliato della storia. Sì, queste sono affermazioni anche un po' retoriche che hanno, hanno un loro peso. Poi in realtà nelle cose, diciamo che Putin ha adesso il pieno controllo della situazione in Crimea, sembra, e comunque ha giocato d'anticipo su tutti, sull'Europa e sugli Stati Uniti, che sono chiaramente spiazzati dall'iniziativa russa. Grazie Francesco Battistini. Grazie, dall'Ucraina. Ciao, buon lavoro a te. E adesso vi vorrei far sentire anche una testimonianza, anzi un'analisi, diciamo, di Maurizio Mazziero, oggi a Focus Economia, un esperto di materie prime e fondatore della Mazziero Research, che diceva l'Ucraina non rappresenta soltanto una fonte di gas per quanto riguarda le materie prime, ma si parla anche di grano. Quindi per cercare di capire anche che ripercussioni questa crisi può avere. Abbiamo visto oggi il crollo della borsa italiana con oltre un meno 3%. Vediamo invece altri aspetti, quelli appunto che riguardano le materie prime. L'Ucraina e, diciamo, la parte della Russia e Kazakistan sono di fatto quello che è il granaio non solo dell'Europa ma anche dell'Asia. La parte in se stesso, l'Ucraina non pesa poi molto, perché di fatto riguarda la sua produzione, riguarda il 3% del grano mondiale, però noi ci ricordiamo qualche anno fa, quando ci furono dei vasti incendi sia in Russia che in Ucraina, come scattò verso l'alto il prezzo. Prezzo che è estremamente compresso sia per quanto riguarda il frumento che per quanto riguarda il mais, dovuto agli ultimi raccolti, che sono stati dei raccolti record. C'è un altro aspetto dal punto di vista geofisico, geopolitico, ed è il fatto che c'è un ruolo della Cina all'interno dell'Ucraina. Infatti la Cina ha acquistato o affittato, perché anche qui in teoria c'è una legislazione che vieterebbe di vendere territori ucraini ad altri, ad entità estere, diciamo che la Cina attraverso delle società ha acquistato oppure ha affittato numerose porzioni di terre che tendenzialmente arriveranno nei prossimi anni fino al 5% del territorio. L'aspetto anche qui curioso è che quelle terre sono proprio nella fascia dell'entroterra ucraino che si affaccia poi alla penisola della Crimea. Quindi io mi aspetto che prima o poi, in questo momento i cinesi se ne stanno zitti, ma qualche pressione poi su Mosca ci saranno. E così hai sentito quante cose ci sono in gioco in queste situazioni. Bene, adesso ci prendiamo una pausa di pubblicità, vedo altri vostri messaggi, dice questo ascoltatore o ascoltatrice, la grande bellezza, salva Roma, ma Reggio Emilia e i terremotati aspettano gli aiuti da 2 anni, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Dicevamo della grande bellezza invece del grande crollo di Pompei, che prosegue di giorno in giorno e diventa davvero questa corsa contro il tempo. Ci sono stati nuovi crolli, di questo parleremo tra pochissimo, cercheremo di capire perché un patrimonio che è riconosciuto, solo patrimonio del mondo, dell'umanità, in tutto il mondo, noi lo consideriamo così poco e lasciamo che vada a catafascio. Vi ricordo però prima quali sono stati i temi principali della giornata. L'est dell'Ucraina in mano ai russi, Kiev dice non cederemo, c'è stato prima un ultimatum dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, poi smentito, il presidente americano Obama intanto dice la Russia è dal lato sbagliato della storia. E poi per la politica italiana, Gentile, sottosegretario Gentile del nuovo centrodestra, si dimette da sottosegretario, ma dice si faccia luce. Intanto l'Italicum arriva in aula e sul Senato l'accordo è a rischio. L'ex presidente della regione Lombardia Formigoni sarà processato per lo scandalo della clinica Maugeri. Pompei, dicevo, un nuovo crollo dopo le abbondanti piogge, ormai è una corsa contro il tempo. E poi l'orgoglio italiano, gli Oscar, trionfa la grande bellezza, grazie di Sorrentino, 12 anni schiavo, il miglior film. E adesso vi dicevo, quindi parliamo quello che sta succedendo a Pompei. C'è stato un crollo ieri, oggi ce n'è stato un altro, dicono vabbè che il muro di questa bottega non fosse così di enorme importanza, però muro dopo muro, sasso dopo masso, parete dopo parete, Pompei sta crollando. E oggi Giovanni Puglisi ha lanciato anche un appello. Buonasera Puglisi. Buonasera. Rettore dell'Università Yulm di Milano, ma in questo caso soprattutto presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Si sa che Pompei è patrimonio dell'umanità, decretato da tempo dall'UNESCO. Ci sembra anche una cosa piuttosto scontata. Adesso dovrebbe uscire a breve un colossale americano. Sì. Se posso permettermi, è patrimonio dell'Italia. Certo. Questo mi sembra la cosa più importante da cui partire. Ma sa che noi dei patrimoni di questo genere non è che sappiamo farcene tantissimo, no, Puglisi? Purtroppo questo è il vero problema, perché come dice giustamente il Presidente del Consiglio, non dobbiamo tenere i conti a posto perché ce lo chiede l'Europa, ma per i nostri figli e per noi stessi. Lo stesso discorso si può fare per i patrimoni della cultura, non dobbiamo tenerli a posto, valorizzarli, manutenerli, metterli a reddito perché ce lo chiede l'UNESCO, ma per l'orgoglio nazionale, per l'orgoglio dell'Italia, per fare dell'Italia veramente il paese della grande bellezza, perché altrimenti è inutile che festeggiamo Sorrentino. Puglisi, però siccome questi crolli ci sono da tempo a Pompei, che cosa mancano? I fondi, l'attenzione, il personale, una cultura di un certo tipo in Italia, che cos'è che non funziona? Guardi, le piogge, in fondo manca un po' di tutto questo e non manca nulla, perché le risorse nel piano straordinario ci sono, le persone in qualche modo sono reperibili. Pare che in questo momento ci sia il provvedimento, dico pare perché io non sto nella macchina amministrativa, però qualche notizia mi arriva, il provvedimento che dovrebbe rendere operabili questi interventi, che secondo me sono comunque insufficienti, lo dico subito, però sono già qualcosa, sia fermo in un qualche passaggio burocratico, mi si dice la Corte dei Conti. E mentre noi stiamo a seguire, non voglio usare altre espressioni verbali, questi passaggi, e Pompei viene giù pietra su pietra. E credo che il problema, come ha detto bene lei nella presentazione, non stia in questo crollo di oggi, che sì, pare che non sia particolarmente rilevante. Il problema sta nella conseguenzialità di questi crolli, che stanno tutti legati ad una matrice comune, mancando una manutenzione ordinaria e, aggiungo, oggi più che mai straordinaria, del sito di Pompei, non solo dal punto di vista archeologico e quindi tutto quello che riguarda la conservazione del patrimonio archeologico, direi superficiale, sul suolo, ma mancando anche la manutenzione delle infrastrutture e del sistema idrogeologico che sottende il terreno di Pompei, credo che questo sia destinato, se non si interviene rapidamente, superando queste difficoltà amministrative, o chiamiamole col gergo che ormai si usa, burocratiche, corriamo il rischio poi che i danni aumentino e i problemi, i costi diventino sempre maggiori. Poi ci sono poi tutti gli altri problemi, una certa carenza di personale, che le risorse disponibili non soltanto per mettere le pezze e le toppe ai buchi, ma le risorse per gli investimenti, perché i beni culturali hanno bisogno di investimenti, e gli investimenti non si fanno col bilancino del farmacista che usa spesso il Ministero dell'Economia. E quindi da questo punto di vista io credo e dico sempre che fin quando la cultura, come in fondo anche la ricerca, l'istruzione e l'università, in questo paese non diventano una delle cinque priorità di un governo, io credo che il tutto sia pannicelli caldi. Senta Puglisi, ma quando per esempio Vincenzo Pepe, che è presidente di Fare Ambiente, dice serve l'intervento di organizzazioni internazionali con azioni più pressanti e incisive per salvare questo tesoro, il nostro patrimonio artistico, cioè chiede l'intervento della comunità internazionale, di organizzazioni internazionali, quindi dice non bastiamo solo noi, secondo lei è giusto e legittimo invocare l'intervento anche degli altri? Qui dobbiamo intenderci, se noi parliamo dell'intervento internazionale in chiave solidaristica, credo che l'Italia queste cose le ha viste, però le ha viste in momenti che io mi auguro che non si ripetano. Io ero giovane in quegli anni, ricordo il famoso alluvione di Firenze, e a Firenze arrivò tutto il mondo, e arrivò il mondo però a frittata fatta. Io credo che da questo punto di vista oggi l'Italia, prima di chiedere gli aiuti al mondo, posto che si vanta di essere il paese col più grande patrimonio storico, artistico e paesaggistico del mondo, deve dimostrare di essere credibile. Dimostrare di essere credibile significa che deve fare da sé. Financo l'UNESCO, che è un'agenzia internazionale, non si regola su leggi proprie o non impone norme proprie. L'UNESCO si fonda sulle leggi dei paesi membri. Gli accordi dell'UNESCO sono una specie di addendum che ogni paese, quando viene riconosciuto un sito patrimonio dell'umanità, sottoscrive con l'UNESCO, perché quel paese, questa è la chiave di lettura e di volta, quel paese si impegna con la comunità internazionale a mantenere quel bene o quel paesaggio nelle condizioni con le quali è stato recepito in quell'accordo e renderlo fruibile a tutti, dall'Aga Khan al sacco pelista. Infatti l'UNESCO chiede i piani di gestione. Non è che l'UNESCO si impegna a dare aiuti, risorse, a tirare le orecchie a quel paese se non rispetta gli accordi. È il paese che si impegna con gli organismi internazionali. Per questo io, quando vengo visitato da sindaci o da amministratori che mi chiedono di iscrivere il loro comune, il loro bene culturale, la loro tradizione folcloristica nei patrimoni dell'umanità, la domanda provocatoria che faccio è questa: il portafoglio lo ha pieno? Perché il vero problema nasce il giorno in cui il bene viene riconosciuto. Da quel momento in poi noi moralmente condividiamo quel patrimonio con l'umanità. Questo vuol dire patrimonio dell'umanità. Però se noi siamo... Sì. Mi perdoni, prego. L'umanità acquisisce il diritto a fruire di quel patrimonio, noi sottoscriviamo il nostro impegno e quindi abbiamo il dovere di garantire quella fruibilità a tutti, ma siamo noi che la dobbiamo garantire. Quindi Puglisi, domani ci sarà un vertice convocato dal neoministro della cultura Dario Franceschini. Se si dovranno fare delle cose concrete, decidere di dare una svolta a questa vicenda vergognosa di Pompei, che cosa domani si dovrà decidere? Ma io guardi, non ho l'ambizione né la supponenza di indicare al ministro Franceschini che cosa deve fare, perché lui lo sa molto bene. Credo che la cosa che domani mi aspetto, mi auguro che possa uscire da quel vertice, sia una immediata esecutività a tutti i provvedimenti che sono ancora così pendenti, per dare concretezza e operatività alle decisioni, dare esecuzione a quei fondi che sono disponibili e che non riescono a essere messi in opera, aprire i cantieri, perché se non apriamo i cantieri non risolveremo mai la di manutenzione, né ordinaria né straordinaria, al costo e a prezzo anche di fare qualche intervento legislativo di decretazione urgente. Cioè non penso che si possa ancora perdere tempo dietro ai passaggi burocratico-amministrativi, cioè non c'è più il tempo. E non è solo un problema di Pompei, cioè in Italia abbiamo diverse di queste condizioni, ma le sembra migliore la condizione della Liguria? Le sembra certo. migliore l'immagine di quel treno che pendeva sul crostone Dandora. Sul crostone di una riviera? Le sembra accettabile la situazione delle Cinque Terre, che sembrano un varo della Liguria verso il mare? Cioè l'Italia non si può permettere tutto questo. Noi siamo il paese che ancora oggi all'UNESCO abbiamo il più alto numero di siti, e però io ricordo qualche anno fa l'ambasciatore di un grande paese in una delle riunioni UNESCO, in cui si parlava del desiderio dell'Italia di continuare a iscrivere siti, con una battuta, ma sempre tale è: ma ancora siti volete iscrivere voi italiani? Davvero? Il che poteva significare, da un lato, ne avete tanti riconosciuti, calmatevi, date spazio ad altri. Però siccome questa battuta seguiva un dibattito che riguardava un'altra realtà unescana che ha avuto tante discussioni, mi ricordo che si parlava delle Eolie, poteva significare un'altra cosa. Ma come? Non siete in grado di tutelare ciò che avete e volete ancora iscrivere? Ne volete aggiungere altre? Chiarissimo, Giovanni Puglisi, speriamo solo di non sentirci al prossimo crollo, al prossimo treno penzolante. Grazie intanto. Proprio di no. Grazie a grazie, lei. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima di passare al prossimo tema, vi ricordo velocemente quali sono state le notizie principali. Naturalmente in primissimo piano c'è sempre l'Ucraina in mano ai russi per quanto riguarda soprattutto l'est della nazione, anche se adesso all'ONU è iniziata proprio in questi istanti la riunione del Consiglio di Sicurezza, una riunione straordinaria. Naturalmente c'è al lavoro, all'ACRE, la comunità internazionale che sta cercando di arrivare a una soluzione pacifica. Per quanto riguarda la politica italiana, ci sono state in serata le dimissioni del sottosegretario Gentile, e che dice però si faccia luce sulla mia vicenda. Intanto l'Italicum, la proposta di riforma di legge elettorale, arriva in aula al Senato, l'accordo però è a rischio. Sarà processato l'ex presidente della regione Lombardia Formigoni per lo scandalo della clinica Maugeri. E poi, per quanto riguarda Pompei, avete sentito il nuovo crollo, la situazione è davvero sempre più svilente. Adesso parliamo di Europa, di un argomento che continua a fare molto discutere, quello euro sì, euro no. C'è il no euro tour, che è il viaggio della Lega contro la moneta unica. È partito il 16 febbraio, attraversa varie città italiane in vista delle elezioni europee di maggio. Ma uscire dall'euro per andare poi dove? Perché un asse con Marine Le Pen, cioè la leader dell'estrema destra francese, da parte della Lega? Alessandra Schepisi ne ha parlato con l'europarlamentare Lorenzo Fontana, capo delegazione Lega Nord al Parlamento Europeo. Europa 24 notte. Verso le europee. Il messaggio è che purtroppo questa moneta ha creato grosse difficoltà in tutto il sud Europa, quindi non solo sicuramente in Italia, e perché evidentemente questa moneta, questo euro, è più che altro un marco, una moneta forte che non è adatta alla nostra economia, e non solo alla nostra economia, e questo è molto importante per far capire proprio come non sia esclusivamente un problema italiano, è un problema di tutte quelle economie che evidentemente avevano necessità di una moneta differente, magari un po' più debole per essere più competitive. Purtroppo in 10 anni non si può dire che sia avverato quello che ci avevano promesso, ossia che saremmo stati tutti più ricchi. Voi sognate quindi una Padania libera senza l'euro, l'uscita dall'euro per tornare alla lira? Beh, diciamo che ci sono diverse ipotesi. Una delle opzioni potrebbe essere quella del ritorno alla lira, un'altra opzione è quella di fare in modo che ci siano quantomeno 2 euro diversi nell'eurozona, in modo che ci sia appunto delle monete che siano adatte per le varie economie che ci sono in Europa. Un'altra è quella di rivedere i trattati, che comunque sia bisognerebbe rivederli in ogni caso, ma rivedere i trattati per fare in modo che questa moneta sia un po' meno forte rispetto a come è adesso, e così che non tuteli solo gli interessi purtroppo tedeschi. Beh, lei ha parlato tra le varie opzioni anche quella di un ritorno alla lira. C'è chi dice che questi argomenti della Lega alla fine sanno un po' di nazionalismo tricolore, cioè si sovrappongono un po' agli argomenti di chi porta avanti invece istanze italianiste, nazionaliste in difesa della nazione rispetto all'Europa. Diciamo che purtroppo noi ci siamo trovati dalla padella alla brace, nel senso che eravamo e siamo sotto il centralismo romano, e purtroppo lo siamo anche già sotto il centralismo anche di Bruxelles, e quindi purtroppo le battaglie sono due: da una parte cercare di essere più indipendenti da Roma, però non è che essere indipendenti da Roma dobbiamo diventare schiavi di Bruxelles. Noi non vogliamo essere ovviamente schiavi di nessuno, e quindi neppure di Bruxelles, vogliamo essere indipendenti anche di Bruxelles, o quantomeno a essere in Europa, però valere e valere come tutti gli altri. Per quanto riguarda i nazionalismi, state comunque portando avanti un asse con Marine Le Pen. Certamente sì, perché Marine Le Pen condivide il fatto di voler cambiare questa Europa. Io non li chiamerei nazionalismi, io li chiamerei un'altra Europa è possibile. Una contestazione invece che fanno voi leghisti è che, come dire, criticate l'Europa, poi però avete vari europarlamentari che siedono come lei, insomma, che percepiscono anche certo. Uno stipendio piuttosto alto, quindi, come si dice, sputate nel piatto dove mangiate, insomma, un certo senso. Beh, no? Bisogna dire che se si vuole tutelare la diversità di pensiero e se si vogliono fare le battaglie, bisogna anche cercare di entrare in queste istituzioni. Noi non siamo anti-europeisti. Anzi, io sono convinto che il nostro gruppo politico sia il maggior europeista, soprattutto a favore dei popoli d'Europa. Certo, se qualcuno intende l'Europa come difesa delle banche, allora diamo fastidio, allora magari qualcuno preferirebbe che noi non fossimo presenti a fare le nostre battaglie all'interno dei vari parlamenti. Però ci sono delle posizioni diverse, per esempio il sindaco leghista di Verona, Tosi, ha detto più volte che comunque uscire dall'euro costa carissimo, non si dovrebbe tornare indietro. Diciamo che anche lui riconosce che l'euro non è stata sicuramente una fortuna. Lui ovviamente magari è più dell'opzione di dire rivediamo i trattati o comunque cercare una via più morbida rispetto a quella dell'uscita tout court dall'euro, però anche lui riconosce il fatto che l'euro sicuramente non è stata la fortuna per la nostra economia, anzi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. And the Oscar goes to The Great Beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Okay, thank you to the Academy, thank you to Tony and Nicola and all the actors, producers and the crew. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. And thank you to Roma and to Napoli and my personal great beauty, Daniela, Anna e Carlo. And thank you to my brother Marco, my sister Daniela, and this is for my parents, Sasa and Tina. Thank you very much. Thank you. Insomma, internazionale, Paolo Sorrentino, dovrebbe aver sentito parlare in inglese quando ha ricevuto l'Oscar. E adesso vogliamo fare una specie di, in questi minuti che abbiamo, in questi sei minuti, un dibattito acceso o meno acceso, come sarà, insomma, un match su questo film. Perché Gianni Canova, sin dalla prima ora, ciao Gianni. Buonasera a tutti. Docente di storia del cinema all'Università Yulm di Milano e conduttore su Sky di Cinemaniaco. È stato veramente maniaco, se mi permetti, prendendo il titolo del tuo programma, perché quando ci siamo sentiti a fine dicembre, inizio gennaio, hai detto che già l'avevi visto 7 volte. Quindi adesso ti toccherà vederlo un'altra decina, probabilmente, dopo l'Oscar, Gianni. No, una decina no, ma sicuramente uno dei film che rivedrò nella mia vita, perché è un film che in me produce piacere, Non ho la pretesa che il mio gusto personale abbia un valore universale, ma credo di avere il diritto di dire che per me è un film che a me è un film che dà molte emozioni. Tra l'altro tu ci hai guadagnato anche dei soldi, diciamo la verità. Qualcosina, ho fatto delle scommesse tempi non sospetti, nel senso che ti avrebbe vinto l'Oscar. Per un'altra magia, prima ancora che andasse a Cannes, dissi: questo è un film che potrebbe vincere l'Oscar, non ci credeva nessuno. Poi da quando è stato nominato non ho più nessun dubbio. Ma vabbè. Quindi se volete previsioni, perché giovedì esce da Gianni Canova, sapete che ha questo sesto senso. No, questo no. Invece Alberto Alfredo Tristano, che collabora con l'Inchiesta. Ciao Alberto Alfredo. Buonasera. Ha detto: la grande bellezza di Sorrentino, scritto proprio così, è una boiata pazzesca. Hai ancora il coraggio di sostenerlo dopo l'Oscar? Quello era il titolo, sono stato, se mi permette, un po' più analitico e garbato nel pezzo. Sì, dopodiché però non, senso però. Non ho cambiato idea sulle mie riserve verso il film. È un film che gira vuoto, non memorabile senz'altro nella carriera di Sorrentino, verso il quale io nutro una grande ammirazione, però mi sembra un passo indietro rispetto a film come Il Divo o il suo primo film L'Uomo in Più. E, dopodiché io ho grande rispetto per gli ammiratori della prima ora, un po' meno per i trombettieri dell'ultima ora, perché già mi è scattato Il Soccorso al Vincitore come nel più classico costume italiano. Ma questo sempre che si tratta di guerre, di film. È intasato in queste ore, diciamo, di grandi supporters, ma ci sta. Tu invece hai il coraggio di dire no, continuo a non piacermi, perché dici è più la descrizione di Roma è più quella della grande monnezza, della grande bellezza. Ma perché ti dispiace di Roma o proprio dici no, Sorrentino non è stato all'altezza dei suoi film come Il Divo che citavi, no? No, dico che non è stato all'altezza, insomma, non perché ha maltrattato Roma, ma perché secondo me non è entrato nel vivo dei problemi del paese e della città, cioè... io trovo che sia un film estremamente superficiale, che anche insomma, in termini di pura estetica in realtà è più decorativo che profondo. Sinceramente, insomma, mi sembra più il Sorrentino delle pubblicità di Yamamei, quelle famose perché l'ombelico della Ferrari nel montaggio sparì, piuttosto che insomma, il regista capace di raccontarci la recente storia italiana attraverso Il Divo Giulio o gli anni Ottanta. Insomma, io sinceramente non riesco a entusiasmarmi, non mi ha appassionato nessuna delle figure, per cui insomma, francamente non... Capisci Gianni Canova, perché sempre nella sua recensione Stroncatura, Alberto Alfredo Tristano dice la dolce vita è la grande bellezza, dolce vita di Fellini è la grande bellezza, tra loro c'è lo stesso rapporto che intercorre tra la carriera militare di Napoleone e il gioco del risico. E vabbè, come dire... è un'opinione come tante. Io credo che Tristano abbia detto una cosa bellissima: un film che gira a vuoto. A me questo dà la vertigine, trovo che sia bellissimo. Non capisco quelli che pretendono che un film analizzi la città, vada in profondità nell'analizzare i problemi, ma questo lasciamolo fare ai politici, lasciamolo fare ai sociologi. Io da un film voglio altro, io voglio immagini, voglio visioni. Mi piace anche l'idea che un film giri a vuoto, però non tollero una cosa, che non si riconosca che il legame che c'è fra la grande bellezza, la dolce vita è un legame profondo, tutti e due hanno un titolo antifrastico. La dolce vita non racconta la dolce vita, racconta l'orrore della vita. Fellini paragonava il suo film alla prima cantica di Dante, l'inferno. La grande bellezza non è un film sulla grande bellezza, è un film sullo squallore dell'uomo miserabile, quello squallore che si riscatta di tanto in tanto proprio perché quest'uomo miserabile è anche in grado di produrre certe statue, certe musiche, certi film come La grande bellezza. E allora, come dire, perché dobbiamo essere sempre sociologi? Sembra che Sorrentino racconti il bestiario, il trattatello di zoologia umana delle terrazze romane. In realtà non è la sociologia che gli interessa, casomai è l'antropologia, è appunto quel tanto di, come dire, in questo film che continuamente oscilla fra i corpi di carne degli umani e i corpi di pietra delle statue, fra indolenza e vitalismo, fra nichilismo e disincanto, viene fuori qualche verità profonda sull'essere umano, una volta tanto, e non tanto sulle città, sulla storia, sulla politica. Io lo adoro anche per questo, che poi giri a vuoto, beh, quanti a te, film girano questo, a vuoto, questo quante piace. Opere d'arte girano a vuoto, quante opere d'arte ci accendono senza darci una risposta. C'è Enzo che ricorda, scusami Gianni, c'è Enzo che ricorda un ascoltatore che poi dovrebbe essere trasmesso mercoledì forse su Canale 5, martedì, domani. Abbiamo proprio 20 secondi, anzi 15 secondi per Alberto Alfredo Tristano, dimmi solo se ti ha convinto, abbiamo solo proprio 15 secondi, poi ci troncano. Direi di no. Beh, più chiaro così. Bene, è bello che ognuno abbia i propri gusti, qui c'è democrazia. Grazie Gianni Canova, ad Alberto Alfredo Tristano. Noi ci interrompiamo qui, vi ricordo i titoli giusto più tardi.